Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Lo Stato c'è. Ha vinto lo Stato della legalità che attua le decisioni democraticamente assunte, ha detto tronfio Berlusconi inaugurando l'inceneritore di Acerra. Peccato che aver imposto ai cittadini campani gli inceneritori non c'entri niente con la legalità e la democrazia, e ancor meno con la salute dei cittadini e il rispetto dell'ambiente. C'entra piuttosto con i soldoni che finiranno nelle tasche degli imprenditori e degli amici loro. Una torta di oltre 3,5 milioni di euro al giorno per 20 anni. Lo Stato c'è, ma di quale Stato si parla? Quello rappresentato da politici e affaristi? Avidi di soldi e privi di scrupoli? Al Sud non è mai mancato, però ne avremmo fatto volentieri a meno. Come si può sostenere che bruciare immondizia sia moderno, buono e giusto, quando è palesemente arcaico, nocivo e quindi profondamente ingiusto? L'emergenza rifiuti è servita unicamente a imporre la logica dell'incenerimento. Perché non si racconta che la Comunità Europea ritiene scorretta la politica di finanziamento agli inceneritori, che sono proprio tali finanziamenti a scatenare gli appetiti degli industriali del settore e a impedire il successo del ciclo virtuoso della differenziazione e del riciclo? Napoli e la Campania sono la cartina di tornasole di un sistema malato. Se si vuole veramente pensare al futuro, alla salute dei cittadini, all'abbattimento delle emissioni, in una parola, al bene comune, perché non si costruiscono impianti di trattamento a freddo, meccanico e biologico dei rifiuti? Impianti del genere, preferiti agli inquinanti inceneritori, sono attualmente in funzione in Australia, Germania, Inghilterra e altri sono in progettazione negli Stati Uniti. Perché il governo non impone agli industriali di utilizzare soltanto imballaggi e confezioni biodegradabili? Non c'è proprio nulla di democratico e di legale in quello che si sta facendo. E non c'è numero o legge che possa giustificare il sacrificio sull'altare del profitto, della salute e della qualità della vita delle persone. Gaspare. Che piaccia o no, è Berlusconi, nel bene e nel male, l'unico leader che c'è in Italia. Sento in queste ore valanghe di critiche, di analisi, di commenti e di reazioni al congresso del PDL e al discorso del suo presidente. Sento che con malizia e voglia di seminar zizzania già si cerca di considerare Fini come il nuovo futuro nemico di Berlusconi, come la serpe in seno, come la causa dei suoi futuri problemi. Incapaci di avere un capo come quello della maggioranza, demonizzano come al solito tutto ciò che si muove e ha consenso, nella paura di non stare al passo. Quando si ama qualcuno, anche nella vita sentimentale, non lo si fa perché troviamo in lui la perfezione, ma perché c'è un qualcosa di inafferrabile che crea attenzione e ci fa vedere quella persona come unica per noi. Berlusconi è un pifferaio magico, capace di creare emozione e fiducia, e chi lo segue vede anche i suoi difetti, ma lo ama ugualmente, perché apprezza comunque la sua passione, anche la sua spontaneità, che spesso gli sono causa di critiche, e lo vede uomo, prima ancora che come politico. Secondo me la sinistra non riesce a capire che la demonizzazione dell'uomo Berlusconi gli fa ottenere l'esatto contrario. È come negli amori contrastati, che se ostacolati diventano ancora più profondi e sviluppano un forte senso di protezione e di difesa. Se si vuole che i voti che ora vanno a Berlusconi nel tempo passino dall'altra parte, non è screditandolo che ci si riuscirà, ma creando un'alternativa più valida di lui. La vedo così dura. Lettera firmata. Caro direttore, non crede che sia il caso, in questa situazione di crisi indotta da terzi verso le nostre aziende, che la parola fallito o fallita debba essere cambiata, smussata, addolcita? Io capisco che per un imprenditore il fallimento è da mettere in conto, ma so anche che la vergogna e il senso di sconfitta prevalgono, portando gli stessi imprenditori ad aggrapparsi fino all'ultimo alla propria azienda, creando situazioni disastrose e irrecuperabili. Un imprenditore, prima di dichiararsi fallito e mettere sul lastrico, oltre a se stesso, altre famiglie, si farebbe succhiare il sangue. Alla fine lo fa perché è sicuro di essersi mosso nel migliore dei modi. Però ha fallito. In questa particolare situazione gli imprenditori hanno ben poche colpe se la loro azienda e tutto ciò che ci ruota attorno va a rotoli. Allora non sarebbe un aiuto anche solo non chiamarli più falliti? Rudy. Egregio direttore, sono stufo di sentire alla radio commercianti, imprenditori o altri lavoratori indipendenti che si sentono offesi perché additati da molti come responsabili dell'evasione fiscale. Loro che lavorano 12 ore al giorno, che sono gli unici responsabili delle loro entrate, che sono gli unici che rischiano del loro lavoro, che hanno tante spese, tanti debiti, una pressione fiscale molto elevata, ma che, a detta loro, sono anche degli onesti contribuenti. Nessuno che ammetta che se guadagnano 10, 7 vengono dichiarati e 3 spariscono in saccoccia. Con impudenza scrivono a lei dicendo che la colpa è dei lavoratori dipendenti o dei pensionati che fanno il doppio lavoro. E in piccolissima parte anche questo è vero. Io sono un lavoratore dipendente e il mio principale mi trattiene tutte le tasse fino all'ultimo euro in busta paga. Che se ne voglia dire, le nostre ritenute sono certe. Lo stesso non si può dire per i lavoratori autonomi. L'ingresso in Europa, con il cambio dalla lira all'euro, ha reso ricche molte persone, per lo più nella categoria dei lavoratori autonomi. Non è un caso che tutto sia raddoppiato tranne gli stipendi. I commercianti si sono subito adeguati, vendendo a un euro i prodotti che prima costavano 1.000 lire. E così la manodopera di un idraulico, di un meccanico, di un muratore, senza contare le prestazioni del dentista o di un medico che riceve nel proprio studio privato. Quante volte è capitato di andare dal dentista o dal medico e sentirsi dire «con fattura o senza fattura?», ottenendo nel secondo caso uno sconto del 10 o del 20%. E quante volte è capitato di andare al bar o al panificio e vedere il commerciante che con nonchalance ti prende i soldi dicendoti un semplice «grazie?». A onor del vero, la colpa di questo non è solo loro. È di tutti, dell'intera collettività che spesso accetta compromessi, pur sapendo che sono sbagliati. Il più delle volte, se al commerciante chiedi lo scontrino, viene additato come il classico rompiscatole. Vieni guardato con disprezzo, perché chiedi una cosa di cui non te ne fai niente, a parte le spese sanitarie. È solo il principio di uguaglianza, pagare tutti per pagare di meno, che a volte ti fa fare delle scelte impopolari. E allora le chiedo, gentile direttore, perché non dare la possibilità a noi consumatori di poter detrarre una percentuale, anche piccola, di tutto quello che spendiamo? In questo modo ognuno di noi avrebbe interesse a chiedere lo scontrino fiscale e si innescherebbe così un controllo fiscale automatico tra tutti i cittadini, che porterebbe, ne sono sicuro, all'abbattimento drastico dell'evasione. Forse questa sarebbe una manovra politica che andrebbe a ledere molte categorie imprenditoriali e artigiane, ma riscuoterebbe sicuramente molti consensi della piazza. O forse è troppo semplice per un paese come l'Italia, dove solo i furbi vengono premiati. Sergio. Egregio direttore, in una delle sue ultime risposte, lei ha osservato che non bisogna essere pessimisti riguardo al comportamento degli italiani. Ora, mi permetto di osservare che un paese che ha circa il 30% di evasione fiscale non è un paese dove, a fronte di un evasore, ci sono centinaia di migliaia di contribuenti onesti, come lei ha riferito. Perché, se così fosse, i dati sarebbero completamente diversi. Questo invece è un paese dove è largamente diffusa la pratica dell'evasione fiscale, tanto che io mi chiedo chi non la pratica e perché non vuole, o piuttosto perché non può. Per quanto riguarda i politici, faccio notare che non vengono da Marte o da Plutone, per cui possiamo rispedire la partita avariata, ma vengono eletti tra gli italiani, e il panorama è questo. Sono convinto che tutto questo lei lo sappia benissimo, eppure ha dato una risposta politicamente corretta verso la stragrande maggioranza degli italiani, assolvendoli e mettendo gli altri tra i cattivi. Per me invece non è così. Questo è un paese quasi sprovvisto di senso civico, un paese dove lo Stato è visto come un terzo estraneo, al quale chiedere e prendere anche quello che non spetta e al quale dare in cambio il meno possibile. Un paese dove si promettono pensioni, sussidi, aiuti a tutti, senza chiedersi chi paga. Un paese dove si creano tranquillamente pensionati, assistiti, aiutati di serie A, serie B e serie C, dove i furbi la fanno sempre franca, dove si condanna Vanna Marchi giustamente, mentre i Cragnotti, i Tanzi, quelli di Banca 121 e chissà quanti altri, sono tranquillamente in libertà e se mai verranno condannati riceveranno pene nettamente inferiori. Un paese dove, in campagna elettorale, si promettono meno tasse e nessuno che dica «manterremo le stesse tasse, ma aumenteremo i servizi». Ecco, tutto questo non avviene a causa di una piccola minoranza, avviene a causa del comportamento di una maggioranza degli italiani. E questo non lo si sente dire e non lo si legge da nessuna parte. perché è politicamente corretto non dire agli italiani che se l'Italia è messa così è solo colpa degli italiani e dei loro comportamenti. Siven. Caro Siven, mi permetta di essere cordialmente in dissenso con lei e con l'occasione rispondo anche ad altri ascoltatori che hanno messo in rilievo come l'evasione fiscale sia un problema ben più vasto di quanto potesse apparire nella mia risposta. Ebbene, innanzitutto vorrei puntualizzare il fatto che la mia risposta non voleva offrire dei numeri puntuali e di certezza statistica. Intendevo affermare, e resto convinto di questo, che in Italia coloro che pagano regolarmente le imposte e fanno il loro dovere di cittadini sono molti, molti di più di quanti in piccola o grande parte evadono il fisco. Questo non vuol dire che l'evasione fiscale non sia un problema. È un gravissimo problema per l'Italia dal profilo economico, sociale e soprattutto etico. Ma detto questo, credo che ci sia più di un motivo per ritenere, al di là delle posizioni politiche, che l'Italia non sia un paese in declino e abbia ancora al suo interno grandi capacità di coesione sociale e di impegno civile. C'è l'Italia dei lavoratori, delle piccole e medie imprese, dei professionisti, di coloro che operano nei servizi sociali e nel volontariato. C'è un'Italia silenziosa che fa giornalmente il proprio dovere e che ha forte spirito di iniziativa e volontà di reazione. C'è un'Italia che si impegna dove è necessario e che giustamente protesta quando le cose non funzionano. Dire questo non è voler essere politicamente corretti, ostinatamente ottimisti. È guardare alla realtà nella sua complessità. Ci sono tanti problemi e l'evasione fiscale è tra questi e, ripeto, va combattuta con tutti i mezzi. Ma ogni tanto mi sembra giusto guardare anche a quanto c'è di positivo. L'Italia e noi italiani non abbiamo solo un grande passato. Possiamo costruire insieme un futuro in cui tutti abbiano la possibilità di vivere meglio. Con l'impegno quotidiano di tutti e guardando più alla società che alla politica, anzi lasciando ad altri momenti le giuste critiche verso la politica e i politici. Dear direttore, ascoltavo qualche giorno fa il radiogiornale mentre mi muovevo a Delhi, visto il traffico che c'è da queste parti. C'è tempo di sentire e di riflettere su quello che dicono. La notizia era sul primo ministro Manmohan Singh che, prima di partire per Londra, aveva organizzato una serie di incontri con forze politiche e sociali che lo impegnavano totalmente per i 3 giorni che precedevano la sua partenza. Questi impegni gli hanno anche impedito di partecipare ad altri eventi legati alla campagna elettorale in corso da queste parti per l'elezione del governo centrale dello Stato federale dell'India. Questo mi ha fatto pensare che invece da noi, prima del G8 o di eventi simili, non si consulta nessuno. E poi si fa una conferenza stampa dove si dice che tutto è finito bene e che il nostro paese ha avuto il meglio che si poteva avere, eccetera, eccetera. Penso che sia giunto il tempo di modificare il modo di fare politica da noi, con particolare riferimento alla politica internazionale. Non sarebbe ora di smettere di partecipare ai vertici solo come suppellettili e di poter tornare a dire la nostra? Mr. Singh, nel corso dei suoi incontri, fissava parametri e limiti su quello che l'India può concedere e quello che l'India si aspetta in cambio, e va a Londra con la chiarezza di quello che il paese, senza conflitti a posteriori interni, è in grado di affrontare. Non ha bisogno poi di porre la fiducia su eventuali provvedimenti confermativi. Lui va e parla a nome del paese e non a nome proprio. E poi si cerca di imporre al paese quello che altri hanno deciso per noi, come ho l'impressione che avvenga da un po' di tempo a questa parte con il nostro paese. Mario, Bangalore. Gentile redazione, mi è capitato di sentire alla vostra radio la presentazione del libro di Paola Caridi che trattava di Hamas. Gli appartenenti ad Hamas sono stati definiti in tutti i modi meno che terroristi e si invitavano gli ascoltatori a cercare di capire cosa volesse Hamas. Chi avesse ascoltato il colloquio senza essere informato della situazione medio orientale avrebbe potuto credere di trovarsi di fronte ad un'organizzazione che con metodi assolutamente democratici ha preso il potere a Gaza e che si propone come interlocutore valido per la soluzione del conflitto. Non è assolutamente così. Si tratta di un'organizzazione che ha preso piede tra i palestinesi più in virtù della corruzione profonda dell'autorità palestinese di Fatah che non delle proprie capacità. Si tratta di un'organizzazione che ha provocato lo spaccamento del fronte palestinese, agganciandosi a Damasco e Teheran, dai quali riceve, come Hezbollah, armi e soldi. È un'organizzazione che vuole la distruzione dello Stato di Israele, non a caso definito entità sionista, un'organizzazione che gestisce la vita degli abitanti di Gaza con un cinismo raccapricciante. Le cose sono queste, nella loro ruvida realtà, e ne dobbiamo prendere atto con grande chiarezza e lucidità, senza credere che il diavolo sia meno brutto di quanto lo si dipinga, semmai è vero il contrario. Ciò detto, è ben vero che la politica la si fa nella situazione data, ma ripeto, senza prendersi in giro. Ogni morto di Gaza, per mano vera o presunta degli israeliani, è per Hamas un investimento sul mercato mediatico internazionale, pronto a bere tutto quello che arriva, forse nel tentativo di lisciare il cane per il pelo. Patrizia, Pisa. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.